Della fuga del gatto oggi in eccezionale ritardo, ma è un ritardo giustificato perché è una puntatona speciale piena di ospiti. In realtà oggi la puntata non si intitolerà La fuga del gatto, ma La fuga del wombat, perché siamo in una regia speciale di cui non vi posso dire il nome perché è clandestina, ma ci siamo ritrovati in questa caverna qui nascosti con un sacco di altri wombat, quindi oggi non solo gatti ma tantissimi wombat, e parleremo come sempre di musica classica per farvi ripigliare visto che è domenica pomeriggio e diamo per scontato che il sabato abbiate fatto bagordi e tutte queste cose, e quindi un po' di musica classica per voi, ma un po' strana oggi perché la intrecceremo con tutti i contenuti della radio vostra preferita, ovvero di Radio Wombat, e quindi studieremo gli intrecci tra la musica classica, la musica rock, pop, punk, funky, hip hop. No, hip hop veramente c'è pochi, forse non c'è niente. Afrobeat, tantissimo, insomma, progressive, insomma, per farla breve, intrecceremo tutte le trasmissioni di Radio Wombat e le costringeremo a mischiarsi e a classicizzarsi per un giorno. E alla fine di tutto ciò, che durerà un po', secondo me, ci metteremo un po' di più del solito, della durata nostra solita della fuga del gatto, faremo anche una premiazione, come fra l'altro per chi ci segue l'avevamo già promesso da un po', faremo la premiazione del vincitore del logo, del contest del logo per Radio Wombat. Per chi è interessato a vedere le anteprime dei nostri vari loghi, perché è vero che ne abbiamo scelto uno, ma poi tanti gli altri, siccome sono tutti bellissimi, abbiamo trovato un po' di difficoltà in realtà a scegliere, ne abbiamo stampati e ci faremo mille robe, adesivi, magliette, quant'altro. Per chi fosse interessato, invitiamo tutti alla polveriera, dove oggi c'è il mercato e una giornata di densa di contenuti di cui tra poco vi parleremo, e c'è anche un banchino di Radio Wombat dove potete trovare un po' le anteprime, sono delle prove, quindi prendetele un po' come prove, ma sono bellissime le anteprime delle cose che faremo con questi loghi. Basta, quindi Virginia, sì, aiutami. Allora, oggi quindi puntatone, ricchi ospiti, premi e cotillon, e direi quindi una fuga del gatto che socializza il disagio della domenica della fuga del gatto, sì, che di solito è, diciamo, contenuto tra me e la Mari all'Emerson in pigiama, solitamente siamo, facciamo la trasmissione, tanto non ci vede nessuno. Invece oggi ci siamo dovute raccattare, ci siamo dovute, insomma, presentare, non abbiamo le pantofole oggi, niente pantofole, e insomma una minima, insomma ci siamo dovute, ecco, così uscire nel mondo e venire in un'altra sede, appunto segreta, non si può dire perché comunque sì, è una sede segreta. E, è una caverna. È una caverna, una bat caverna, anzi. Ma non diciamo di più. Non diciamo di più. E, sì, allora oggi quindi va vari interventi, e la fuga del gatto si sposta un po' dal suo solito... dal suo solito argomento della musica classica, che con questo non voglio essere riduttiva chiaramente né offendere nessuno, però va un po' appunto al genere, insomma alla contaminazione e soprattutto a quello che io vorrei chiamare non si inventa nulla. No, cioè, io resto, come sono molto meno raffinata della Mari, volevo partire subito così un po' con un'uscita alla Berlinguer, ti voglio bene, e chiamare la puntata Non si inventa nulla. Va bene, allora sarà il sottotitolo. Esatto, non si inventa nulla perché mai nell'arte, quasi mai, e in generale comunque nella musica in particolare, non si inventa nulla, cioè tantissima musica contemporanea, ma anche insomma, tornando un po' indietro insomma, alla prima metà del Novecento e alla musica rock degli anni 70, appunto, ha chiaramente subito influenze, e non era possibile che non fosse così, ha subito più o meno volontariamente, più o meno consciamente, su influenze della musica classica, perché no? Abbiamo... E viceversa, e tra viceversa, l'altro. Sì, sì, chiaro, questo ovvio, oggi si parte dal punto di vista della musica più pop, però in generale anche la musica classica poi ha subito influenze, come, non, cioè, come era inevitabile, no? Nella musica del Novecento. Diciamo questo, che al di là degli esempi più consci proprio, cioè di musicisti che hanno ripreso dei pezzi di musica classica, appunto, celeberrimi, si parlava l'altra volta di quando si è fatto la puntata sui quadri di un'esposizione di Mussorgsky, cioè appunto no? Abbiamo fatto l'esempio di questo pezzo ripreso in un disco degli anni 70 di Emerson, Lake & Palmer, ma e così poi... abbiamo fregato il rovescio, esatto, della medaglia che voleva mettere, infatti scusate tantissimo, è vero, dovevate dirlo prima voi, ma abbiamo fatto la puntata su Mussorgsky e non c'era verso di non dirlo, loro hanno ripreso appunto diversi brani di quadri di un'esposizione e riadattati eccetera, e poi lo diranno meglio loro di me sicuramente, così come artisti come Jethro Tull che hanno ripreso delle parti di alcune composizioni di Bach, ma perfino Santana, voglio dire, se vogliamo arrivare alla roba un po' più con Love of My Life, che viene dal terzo movimento della Sinfonia numero 3 di Brahms, i Deep Purple con Byrne, la cui parte centrale degli arpeggi sul solo di chitarra è tutta dedicata a Bach e mutuata da Bach, ma fino ad arrivare a roba più per i giovani, tipo Lacrimosa, il tema di Lacrimosa ripreso dagli Evanescence, cioè le perle ai porci, mi verrebbe da dire, ma lo vabbè. So, è così, perché comunque quando non si inventa nulla è così. Richie Blackmore nei Rainbow riprendeva spessissimo il tema della nona sinfonia di Beethoven e via via, ci sono un miliardo di esempi che persone anche appunto che se ne intendono più di me potranno fare. Di base appunto più o meno consci, cioè la musica rock in particolare per una sua, insomma, per la sua forma, per come è costruita, ha più facilità a inserire la musica classica al suo interno, altri tipi di musica ci hanno lavorato diversamente, però in generale è chiaro che la musica classica ha influenzato inevitabilmente moltissimi lavori. E qualcuno addirittura li ha proprio presi senza neanche troppo rielaborarli, ce l'ha proprio schiantate lì, cioè ci sono degli artisti che hanno proprio preso appunto, c'è il famoso esempio, ora non abbiamo trovato il pezzo, si voleva fare in partenza, abbiamo già citato molte volte The Commitments, il film, per ovvi motivi, però in The Commitments c'è proprio questo esempio che è lampante, in cui il gruppo va da un prete per farsi dare il posto per suonare, e il prete gli fa all'organo un pezzo che è una fuga di Bach e gli dice: lo riconoscete? E tutti dicono: ah, questo è A Whiter Pale of Shade. Perfetto, è questo. Lì. Benissimo, abbiamo la Mari, ce lo fa. E lui dice: no, questo è Bach, appunto, no? Cioè, questo è proprio l'esempio che si fa sempre per far capire quanto in realtà la musica pop entri appunto, siccome entra più facilmente nell'immaginario, ma al suo interno ha dei pezzi di musica classica che attraverso la musica pop e rock sono poi entrati nell'immaginario. Questo succede spessissimo. E qualcuno si ricordi appunto il pezzo come un pezzo rock o pop, e in realtà sia poi la grande parte di questo pezzo sia musica classica. E c'è Bach che da lontano dice: ma Bach in particolare è molto usato e molto amato, ma proprio per la struttura ovviamente delle sue composizioni, che si presta in particolare a essere, ma non solo lui, appunto abbiamo citato la Lacrimosa di Mozart, piuttosto che appunto la nona di Beethoven. Addirittura leggevo che i Muse, per arrivare proprio alla roba più signore Dio, ormai esatto, avrei voluto dire questo lo so, nome, però al minuto 3:43 di United States of Eurasia riprendono il notturno in mi bemolle maggiore di Chopin, quindi insomma, se vogliamo, insomma, si trovano veramente, e grazie al cazzo poi si fa dischi all'altro, cioè, infatti non si inventa nulla, se te lo dico che non si inventa nulla. Il metal stesso, di sicuro, qui insomma c'è chi se ne intende più di me, appunto tantissimo del metal ha ripreso dalla musica classica, no? Il cosiddetto neoclassico, in particolare con la figura del chitarrista Jay Malmsteen, che appunto era appassionato e spesso nei suoi riff, insomma, e questo per quanto riguarda addirittura la musica metal, quindi ecco. Facce perplesse. Non faccio perplesse, ma vi sfido a contraddirmi, ecco. No, perplesso, ma ci fidiamo. Sì, ma poi ora il regista verrà sistemato. Sì, oggi abbiamo un regista peperino. No, perché se ne approfitta oggi, che perché prima c'è gente. Prenderà il microfono e parlerà, già lo so. Lo voglio vedere questa scena, veramente. Lo so. Voglio arrivare a vedere. Senti, facciamo subito, mettiamo un pezzo giusto per inframmezzare un po'. Il primo pezzo che vi facciamo sentire è di un gruppo che oggi in realtà sentirete un bel po', perché ho trovato un sacco di cose. Vabbè, ho scoperto questo gruppo, mi piace un sacco. Diciamolo. Ve lo rivocherò. È questo. È così. Sono i Vita Mainstream Quartet, che per chi non le conosce, sono un gruppone di Los Angeles che in realtà è nato nel 1999 ed è tuttora attivo. E hanno rifatto, sono un quartetto d'archi, e hanno rifatto un miliardo di pezzi, ma proprio ma tantissimi. Di tutti i generi, dal rock, pop, hip hop, di tutto. E secondo me sono strafighi, perché non è il classico rifacimento, insomma in tanti si sono cimentati con questa cosa, anche Two Cellos mi vengono in mente, esatto. Insomma in diversi, loro secondo me hanno il pregio di riarrangiarli veramente bene, sono proprio belli. E il pezzo che vi facciamo sentire subito adesso è The Love Cats, che mi sembrava anche doveroso, appropriato, direi, per la fuga del gatto. Love Cats dei Cure, The String, Vitamin String Quartet. Thank you. E madonna mia, c'ho dei volumi questi microfoni che mi ci devo ancora abituare. Sì, perché il nostro regista qua, ve lo dico, è un pochino come al solito, ci sta un pochino boicottando. Comunque sì, infatti anche l'inizio del pezzo Love Cats rifatto dagli String Quartet obiettivamente era, l'avete sentito muto, perché sì, ci eravamo dimenticati il tastino muto, vabbè, ma voi non ve ne sarete sicuramente accorti. Invece proseguiamo, e avevamo detto che facevamo un piccolo, una piccola rassegna delle varie trasmissioni appunto di Radio Wombat, e tra cui iniziamo subito con il rovescio della medaglia. Abbiamo qua non entrambi i conduttori, ne abbiamo uno solo, perché l'altro è un fricchettone, Prog 40, ce lo siamo perso. Prog 40 non c'è, però c'è Prog 54? Bello, come lo studio. Bello, 54, mi piace. Abbiamo Prog 54 qua, sì, tra noi, e abbiamo chiesto sostanzialmente oggi pomeriggio ad ogni trasmissione di portarci un brano. Non tutti sono qui con noi, alcuni sono assenti illusi, ma quelli che ci sono ce l'hanno fatto, hanno portato i compiti. Perché sono persone brave, insomma, persone meglio, vorrei sottolineare, meglio, e comunque sì, la Radio Wombat è una radio seria, insomma. E quindi iniziamo subito con il rovescio della medaglia e il pezzo che ci ha portato, che non era, come io ingenuamente pensavo, Pictures and Exhibition di Emerson, Lake e Palmer, ma bensì, dici, Prog 54? Bensì, a proposito di fuga, direi giusto, mi entra il rovescio della medaglia a gamba tesa. Ci piace, rovesciata. A noi ci piace. Rovesciata con il gruppo proprio che ha dato il nome alla trasmissione, che è appunto il rovescio della medaglia. Con un brano tratto da un album che si chiama Contaminazione. Il titolo completo è Contaminazione di alcune idee, di certi preludi e fughe del clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach. Bach. Johann Sebastian Bach. E il brano si chiama La Grande Fuga. È stato scritto proprio in onore della fuga del gatto, ovviamente, della trasmissione, certo, della fuga Bach del gatto. Bach lo sapeva. E appunto noi siamo, io parlo al plurale perché comunque siamo i due DJ, Prog 1 e Prog 70, mettene in quante, assenza, quante ne vuoi. La nostra trasmissione, appunto, Il rovescio della medaglia, si è occupato in questo periodo di analizzare, di ascoltare, di riscoprire quello che è stata la scena del rock progressivo italiano degli anni 70. Ora ci siamo trasferiti in Inghilterra per un breve periodo. Avete fatto una fuitina, beati voi. Una piccola fuga nel nostro studio, nella nostra regia inglese, sì, per ascoltare un po' di progressive inglese, che è comunque considerata la madre di tutto il prog mondiale. Beh sì, immagino che poi insomma la BBC vi stia dando una mano, vi ospita. Sì, certo. Volevo aggiungere madre sempre certa. Sì, certo. Sì, sì, certo. Siamo nello studio di Emerson, Lake & Palmer. Che, ah, proprio, sì, proprio. Vedi? Che era un vecchio teatro che è stato trasformato in studio di registrazione. Noi siamo ospiti ormai solo da Palmer, perché come sappiamo Emerson e Lake ci hanno lasciato. È andata così, sì, sì, sì. C'è anche i migliori. Eh sì, è un peccato, però d'altra parte è chiaro che un programma di rilevanza come il vostro, anche perché la progressive è sottovalutata, diciamo questa cosa, nelle altre radio non se ne trova traccia, chissà sì, come mai. Chissà come mai, perché forse perché i pezzi sono troppo lunghi. Ma guarda, io non capisco, perché in fondo la durata media di un pezzo progressive quant'è? 7 minuti? Ma forse un po' di più. 8-9. Però uno, cioè alla fine anche questa cosa, no? Cioè uno c'ha 9 minuti per fare un sacco di cose, cioè può andare a prendere un caffè, cioè si può fare, non lo so, stirare, intanto c'è la musica. Sì, che soprattutto va. Per noi DJ, Ecco. Mettiamo il pezzo e poi facciamo delle pulizie, sì, allo studio, laviamo i vetri della nostra regia. Certo, come chiaramente anche perché sappiamo che sei in affitto. Sì, certo, dovete comunque un po' compensare. Un po' di manutenzione va fatta. Il prog in eco canone. Sì, poi il prog è considerato un po' un genere morto, no? Che non ha avuto molti... Cioè, con noi sfondi una porta aperta. Comunque. Ha preso molto dal passato e dalla musica classica, dal jazz, dai vari generi, però si è un po' fermato lì nel 75-76, ha avuto una... Come il glam, guarda, ti capisco. Socializziamo il disagio della musica da nerd, dalla musica classica, sì, al prog, poi altri disagi si aggiungeranno, sì, ci saranno dei generi disagiati, molto noi, non so, chi fa trasmissioni. Posso citare 8 Hertz. Ecco, anche lì fa con tutto il bene. No, che c'entra l'offesa, è il club del disagio, nel senso, sì, siamo qui, sì, si sa, e non è che uno può dire sono figo come li pop. Sì, infatti, no, cioè in realtà volevamo fare un po' di outing oggi, perché comunque questa è una radio un po' di autoaiuto, diciamo. Comunque, cioè ognuno Terapy Radio. Sì, siccome non ci fanno mai mettere quello, ecco, che volevamo, la, sì, musica che volevamo, ci siamo fatti la radio da soli. Sì, come il bambino grasso, come i bambini grassi, sì, no, sì, a scuola, che, sì, li prendono tutti in giro, poi da grandi diventano dei superfighi, e così noi non diventeremo mai dei superfighi, però intanto la domenica ci accogliamo la musica classica e soprattutto ve la accogliamo a voi, è poi la base di condividere il disagio, comunque. Che poi secondo me il nostro pubblico è più disagiato di noi. Beh, è ovvio, cioè è ognuno il suo pubblico. Va bene, benissimo, abbiamo detto abbastanza cazzate, sì, quindi ci sentiamo il pezzo, oppure prog 27 vuoi aggiungere qualcosa? Cambia nome ogni volta. Sì, sì, sì, no, cambio nome perché c'è tutta una storia. Certo. È progressivo il nome. Sì, sì. Se l'ho capito in questo momento, sai, mentre lo dicevo. Vabbè, benissimo, avanti. Può andare avanti, non indietro, sennò si farebbe musica regressiva. No, è chiaro, è chiaro. E noi non vogliamo. Quindi, no, io manderei il pezzo che, sì, si chiama La Grande Fuga. Ecco, ridiciamo per bene, bravo. La Grande Fuga del Rovescio della Medaglia del 1973, tratto da, ispirato comunque ad alcune idee di certi preludi e fughe del clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach. La Grande Fuga, qui su Radio Wombat. Mettiamolo, speriamo di non sbagliare, eh? Speriamo di non sbagliare. Mentre. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Tell me thoughts they cannot defend, just what you want to be, you will be in the end, and I love you. In White Satin dei Moody Blues era un altro omaggio al rovescio della medaglia da parte nostra, non era proprio il pezzo che si sono portati loro, era un altro. E i Moody Blues, per chi li conosce o per chi non li conosce, insomma, ascoltateveli, sono un gruppo anni 60, l'album è Days of Future Past del 1967, e questo pezzo è stato registrato con London Festival Orchestra. orchestra, avevano come particolarità, beh, insomma, come ci raccontava prima Prog 77, quella di usare spesso comunque strumenti, orchestra, comunque di strizzare l'occhio alla musica classica, i modi blues questa cosa la facevano spesso. In questo pezzo c'era in particolare un flauto traverso, avete sentito, e un arrangiamento orchestrale. Continuiamo con la nostra panoramica delle varie trasmissioni del Wombat e arriviamo, ci allontaniamo dall'Inghilterra dove eravamo adesso e arriviamo in Africa, nel continente africano, e perché con noi abbiamo uno dei due, non ci abbiamo mai tutti e due, è sempre metà. E oggi abbiamo uno dei conduttori, dei protagonisti di Uhuru, la, che poi, ecco, ora ci devi come prima cosa dire, ma come si dice Uhuru, Uhuru? Semplicemente Uhuru, è una parola in lingua Swahili, che è una, l'unica lingua franca, l'unica lingua africana utilizzata come lingua ufficiale da uno stato africano. In questi casi sono tre stati, cioè Kenya, la Tanzania e l'Uganda, e quindi abbiamo scelto questa parola che significa libertà, tant'è che viene utilizzata spesso anche sia durante le manifestazioni e iniziative, ma anche da altri gruppi musicali, per esempio i Black Uhuru, e in generale a chi si rifà ai roots africano, cioè alle radici del continente nero, sia da un punto di vista musicale, sia da un punto di vista sociale e sia anche da un punto di vista politico, perché Uhuru è stata una parola molto usata dai movimenti di liberazione africani, e quindi appunto abbiamo scelto Uhuru in lingua Swahili, okay, vuol dire libertà. Ora si sa come si dice, non sbaglieremo, per favore. No, non pronunciamolo all'inglese, no. È semplicemente Uhuru. Perché invece all'inglese come la dicono? Uhuru. No. Ma noi gli inglesi non ci piacciono, poi non sono nemmeno buoni con la musica classica. Ma poi sembra euro, euro, si capisce. No, Uhuru. Benissimo. E quindi sì, questa trasmissione che va in onda, ripetiamolo, perché non l'abbiamo detto neanche per il rovescio della medaglia, va in onda il martedì. Alle 7, oddio, mi sono dimenticata. Martedì alle 19. Sì. E invece Uhuru va in onda il venerdì. Il venerdì alle 21.30. Poi ci sono le repliche, la domenica alle 10 la mattina e il lunedì alle 14. Giusto, perché stiamo cercando di mettere le repliche un po' sparpagliate nell'arco del giorno, in modo che chi non può magari la sera, magari invece la mattina è sveglio e se l'ascolta. Esatto. Non io, però vabbè, la domenica mattina. La mattina non esiste per quanto mi riguarda, però diciamo, le persone normali. Sì. Ma noi siamo disadattati. No, vabbè, noi siamo disagiati. Si ascolta Mozart fino alle 4 di notte. Sì, insomma, sì. Ha dei problemi, ovviamente. Vabbè, è così. Quindi, allora, anche Uhuru ha fatto i compiti a casa e ci ha portato un bellissimo pezzo. Esatto. Che è No Agreement, rifatto dalla classica orchestra Afrobeat. Esatto. Giusto. È un'orchestra italiana. E come la vai? Allora, ci devi giustificare questa scelta. La scelta è data dal fatto che Fela Kuti, cioè l'autore del pezzo, ha dichiarato a sua volta che l'afrobeat è la musica classica africana. Vedi? Sia da un punto di vista degli strumenti utilizzati, ma anche perché lui voleva ambire, diciamo, a essere la musica universale e che andasse oltre il suo tempo, insomma, oltre il periodo di cui lui cantava. E quindi niente, abbiamo un po' cercato e abbiamo visto che l'Afrobeat Orchestra aveva riarrangiato non solo questo pezzo, ma questo pezzo all'interno di un album in cui ci sono altri quattro pezzi molto noti di Fela, più altri meno noti. Gli altri pezzi noti sono Zombie, International TT e What Are No Get Enemies, e dai titoli potete capire anche come possono essere anche i testi, insomma, di Nessun Accordo. Zombie è riferito ai capi di Stato, in questo caso della Nigeria. International TT è un gioco di parole, vuol dire International Schiavi Ladri Internazionali, è riferito nello stesso momento all'ITT, che è una multinazionale in cui il periodo Fela in cui canta era tra le più rapaci, diciamo, e quindi abbiamo scelto questo No Agreement, Nessun Accordo, chiaramente con la controparte, nel potere. E beh, che in italiano suona anche bene, Nessun Accordo. Esatto. Musicale, inglese non torna. Però clavicembalo, carina, oboe. Sì, infatti inizia subito con un clavicembalo, per cui a me subito mi è piaciuto un sacco, veramente. Chiaramente. Però sì, secondo me è un bellissimo rifacimento, insomma, poi ora lo giudicherete anche voi. Quindi mi raccomando, ora vi facciamo sentire il pezzo, se vi piace o anche se non vi piace, comunque ricordatevi che il venerdì sera vi aspetta Uru e vi racconterà un sacco di notizie e di cose interessanti dal continente africano. Partiamo con il pezzo, ci sei regista? Ok, andate. Regista primo della lista. Thank you. ancora un po' incasinati perché è una nuova location per noi questa caverna e quindi siamo precari, però non ce ne vogliate. Allora, abbiamo sentito Uru che ci racconta, madonna, non riesco ora va detto bene perché ce l'hanno spiegato e non è che adesso possiamo fare Uru, ecco, va bene, okay. E non riesco, vabbè, tanto, e quindi ci hanno spiegato tutto quanto, ci hanno raccontato della classica musica in Africa e continuiamo e arriviamo all'accademia. No, scusate, non è vero. Allora, vabbè, oggi è andata così, in Cachara. Sì. Cachara, ma si sapeva già in partenza. Vabbè, volevo fare un inciso e dire che mi sembrava interessante una cosa che ci hanno detto prima, appunto, sulla musica africana, il fatto che appunto la musica classica venga considerata quasi sempre poi un modo per andare oltre il tempo, no? Nel senso, è una musica, no? Che nella concezione, in quella più o meno insomma poi eurocentrica purtroppo, però in generale è considerata la musica un po' eterna, quella che poi rimane, no? È mutata, quella a se stessa, e se si, è buffo perché in realtà la musica, cioè i periodi che hanno più recuperato la musica classica sono poi appunto, no? Il rock, il progressive e queste forme qui che in realtà poi hanno mutuato proprio questo come concetto, cioè rimanere nell'immaginario come qualcosa di eterno fondamentalmente, no? Che sì, ha avuto varianti, influenze, cambiamenti, però appunto se si pensa ai pezzi eterni della musica rock, no? Se si pensa appunto a Led Zeppelin, agli Who, che ne so, insomma a tutti quelli che vi piacciono poi di più, a ognuno di voi, ai Rolling Stone piuttosto che appunto a tutto questo, è buffo pensare che appunto il concetto alla base è lo stesso, cioè l'immortalità di un genere, no? È poi un concetto fondante, cioè quello che poi è stato attribuito alla musica classica e che poi di nuovo ritorna in tutte queste forme, soprattutto in certi periodi storici. Sì, ho detto una cosa. No, ogni tanto ti lasciavo parlare perché ero appunto, come si dice, rapita dalle tue parole. Ecco, come si cercavo di dire prima che di incasinarmi completamente, la prossima trasmissione che vi presentiamo è Fuoco alle Polveri. Fuochi alle Polveri normalmente consta di 857 conduttori, sì, che 1000 rubriche, 20.000 contenuti. Oggi abbiamo fatto un'elezione, eccetera, abbiamo scelto uno. Perché ci stanno arrivando sempre solo uno per ogni trasmissione. Però è sempre il migliore, ora non vorrei ora offendere nessuno, però certo. Il fatto di essere già qui alla radio lo rende il migliore di quella trasmissione, senza offesa per gli altri. Però gli altri evidentemente sono timidi oppure, cioè, non è come la mafia, nel senso, siccome è qui è il migliore, cioè, certo, certo. Sì, tra l'altro abbiamo 20 microfoni, ne stiamo usando sempre, vabbè. Comunque, quindi, ecco, dici, aiutaci e parlaci di Fuoco alle Polveri. Siamo in difficoltà oggi. Ciao a tutti, io sono Guido, uno degli speaker di Fuoco alle Polveri. Cos'è Fuoco alle Polveri? Esatto, in effetti è difficile da definire perché è un programma un po' poliedrico, polifonico. Poliestero. Poliestere, sì sì, certo. E giustamente come dicevate voi ci sono un sacco di rubriche, da storia della musica, cucina, invece aggiornamenti dagli esteri, detti nostrani o detti invece dal mondo, ultimamente una rubrica, wow, che ci va, ci vuole, insomma, tendenzialmente chi vuole fare una rubrica noi lo accogliamo a braccia aperte. Che carini, noi non lo faremo mai. No, perché noi siamo snob, cioè abbiamo lo sdegno aristocratico se si presenta qualcuno che sbaglia a dire Bach, poi tra l'altro noi facciamo schifo, però tra l'altro noi siamo un po' pazzi, diciamo. Più inclusivi. Facciamo un casino incredibile. Sei più inclusivi. Puntiamo su quello, ecco. Ma infatti ci state contagiando, secondo me è un po', vedi, così il mood. Secondo me alla fine di questa trasmissione. No, perché di solito invece siamo così seri e professionali. Sì, cavolo. Sì, sì. Direi di sì. La fuga della polvere, no? Le polveri Le polveri in fuga? Le polveri in fuga. Ok. Va bene. E quindi anche questa, no, ricordiamo quando è lunedì. Lunedì dalle 4:30 alle 6:30 circa. 4:30, 6:30 e replica. Replica, sì, ti ricordi anche le repliche? Sei bravissimo se te le ricordi. Allora, mercoledì alle 2 e giovedì alle 3, mi sembra. Allora, voi non lo vedete, ma non sta nemmeno leggendo. Guarda, comunque per me, cioè, già un pezzo avanti. Sì, in realtà, infatti io, la, tipo la nostra, io non lo so quando è replica. Ma noi già tanto se ci si ricorda di presentarsi a domenica, quindi in effetti, insomma, sì, ecco, direi, insomma. Non stiamo facendo una grande pubblicità. No, perché siamo comunque modeste alla fine. Sì, sì. Ecco, noi siamo, sempre pubblicizziamo, tutte le cose succedono qui a Firenze, vedi? Spesso, ecco, quindi questa, uh-huh, mi dimenticavo, è una delle nostre caratteristiche. City Lights. Oh, sì, sì, infatti facciamo un appello un po', anche visto che è un'occasione dove c'è un sacco di gente che passa. Facciamo un appello a un po' a tutti i vari fiorentini, le varie energie dei sobborghi fiorentini, che insomma, se usatelo questo strumento, se vi interessa far sentire un po' la vostra voce, raccontarci di cosa si muove in città, nei vari giri dei spazi liberati e tutto quanto, scoprivateli. Insomma, venite a proporvi. Oggi poi appunto in Polveriera c'è questo banchino al mercato della radio, quindi approfittatene e insomma siamo ben contenti di darvi spazio, intervistarvi. Esatto. Soprattutto a fuoco alle polveri. Sì, sì, sì. Molestarvi. Noi siamo sempre, intervistiamo ciò che accade qui a Firenze, quindi non siamo gli unici. E vorrei dire, possono scrivere anche a www.postawombat.net se volessero dirci qualcosa, yeah. Oppure c'è la pagina Facebook. Sì, sì, sì, è vero, ricordiamo. Ora io non ho davanti tutto il mio schemino che ho sempre con tutte le cose, però diciamo il sito a cui potete riferirvi per guardare un po' tutto quello che riguarda la radio è wombat.noblogs.org. E lì, tra l'altro, oltre a vedere il palinsesto delle varie trasmissioni, così se non vi siete segnati adesso al volo gli orari delle trasmissioni che vi abbiamo detto, potete insomma guardare con i vostri occhi, ma potete anche soprattutto ascoltarci in podcast, o se siete veramente bravi e fedeli ci ascoltate in diretta, cosa che noi insomma ci fa sempre molto piacere. Sì, più punti in diretta, più si prendono più punti. Sì, adesivo anche il regalo. E alla fine, cioè, più punti accumuli, poi si vince una roba del merchandising, che oggi non è vero, ovviamente me lo sto inventando, però ormai l'ho detto, quindi ok. Quindi allora, veniamo al pezzo che avevate proposto, perché secondo me proprio tu ce n'hai mandato uno, io sì, lo so. Sì, è quello, sì, sì. Bravo, abbiamo detto, scusa, è qui, sennò che... Giusto, e quindi come hai scelto questo pezzo e come mai secondo te aveva, insomma, c'ha un'influenza classica, da dove arriva l'intreccio? Allora, giustamente La Fuga del Gatto si occupa di musica classica, dovevo cercare qualcosa, però avevamo detto qualcosa anche un po' di diverso, di reinterpretazione. Certo. Come non si inventa niente. Non si inventa nulla. Bravo. Allora, io ho scelto Merkandede, che è turco, è un compositore turco, che fa in genere musica che mescola elettronica a invece la musica tradizionale, in particolar modo la musica tradizionale turca, i flauti principalmente. Merkandede ha suonato anche con i Naudi, cioè, quindi è nel giro della... E lavora ultimamente con la Modern Dance Troupe, quindi lui fa musica anche classica e il movimento del corpo con i ballerini. E quindi c'è proprio lo spettacolo Istanbul, che è suo, per esempio, è musicato da lui, e quindi molto interessante. Preparatissimo, cioè, preparatissimo, bravissimo. E continua a non leggere. Stellette proprio, gli diamo. Sì, sì, sì. Più... No, poi no, guarda, davvero, io da snob classicista nerd, cioè, sono contenta di contaminare un po' con musica anche non occidentali, perché sì, una del... grossi problemi della musica classica, sì, soprattutto italiana, devo dire, è che non, sì, si fa contaminare abbastanza. In generale, sì, e comunque in generale è molto eurocentrico, ovviamente, proprio per sua... Sì, invece averne, cioè, della roba bellissima. Soprattutto i russi, ecco, magari i tedeschi, certo, sono riusciti spesso a avere, ovvio, anche per motivi geografici, influenze. Però se anche la Russia è occidente, no? Sì, sì. Quella poi, cioè, quando si parla della musica classica, considerata quella Russia, esatto, lì in particolare, in senso, sì, certo. Però appunto, come si diceva per Mussorgsky, piuttosto che per Shostakovich e per altri autori, sono riusciti a momenti, grazie a un voluto ritorno al folklore, ad avere poi dei tratti all'interno delle loro opere. Però ma si è persa, era una ricerca, era una ricerca in quel momento, cioè in quel periodo era una ricerca un po' come nell'arte prefalliti, nel senso, cioè, di tornare a un'epoca precedente e quindi attraverso questo di recuperare il folklore, però appunto era un'operazione intellettuale colta, comunque calata dall'alto, insomma, non era una vera e propria inclusione, certo. ok, però ecco, diciamo che anche nella musica classica ci sono stati, però è chiaro, è molto più difficile, insomma. Ma siamo veramente coltissime oggi. Ma guarda, oggi grandi soddisfazioni. Nel pezzo che Merchanistan che ho scelto ci dovrebbe essere anche, se non sbaglio, un pezzettino di rap turco. Vabbè, che vola tutto. E qui Mortal Wombat, che è esatto, le casse. Esatto. È vero, e quindi facciamo anche l'incrocio con Mortal Wombat. Ci dovrebbe essere qualche rappresentante del Mortal Wombatismo a giro, l'ho visto giù, qualche giovine. Sì, secondo me a un certo punto spunteranno. Va bene, facciamo partire. Regista, sei pronto? Ci sei? Non so, non capisco se mi ascolta. È proprio regista oggi, gomma da masticare, cuffia, tipo, sì. Sembra più un allenatore del baseball che un regista, però a noi spiace, sì, ora anche così. Appiccica la gomma da masticare sul mixer, sì. guarda. Io me ne vado. Per tenere punto, il volume però, fisso. Me ne vado, te lo giuro. Che schifo, va bene, faccio partire il pezzo. Merciani Star Mercandele. siamo dimenticati l'album, vero? Sì, l'album si intitola 800. 800. Dobbiamo... facile. Vi consiglio di ascoltarlo. Sono contento perché... Bubi, 800, Prog 800. Eh sì, siamo progressivi oggi, sì. Va bene, continuiamo e direi che cambiamo radicalmente, come direbbero in Monty Python, è ora qualcosa di completamente diverso. Sì. Perché è venuto il momento di introdurvi a questo programma esoterico e ora infatti si spengeranno un po' le luci, arriveranno degli strani personaggi vestiti di nero, dei maghi eccetera, perché il programma che adesso vi andiamo a presentare è Coccoli al Silicio. Aia. Giusto? È giusto, Coccoli al Silicio. Ma io non volevo essere introdotto però in questa maniera. Oh, Madonna. Vabbè, però sempre dopo e allora. Beh, no, non mi soddisfa. Ti pareva? Il mio alla fine è un programma semplice, fatto da una persona semplice, quale sono? Un ragazzo di strada. Di Borgata. Scusate, ma così no. Non veramente. Vedete i gesti che sto facendo, però è un peccato. Sì, sì. Cioè io comunque sono stato finora zitto, schiavizzato qua nel allora, cantuccio, nascosto. Sempre passivo aggressivo. Perché comunque parlo poco, sono... E non perché sono un mago, ma appunto perché sono un ragazzo umile che fa questo programma che sostanzialmente mi hanno imposto. Cioè io non chiaro, se ovvio, me l'avevano imposto. Io non lo volevo fare, però no. Sostanzialmente la radio aveva questa esigenza di coprire, no, appunto tutte le varie cose dell'underground e quindi mi hanno detto, cioè per essere una radio che funziona devi fare il programma sulla massoneria, quello degli hacker e quello degli hacker e quindi io mi sono prestato mettendomi sostanzialmente al servizio. Io non, di queste cose non ne so nulla, ho studiato tantissimo, praticamente ho passato 2 mesi soltanto a studiare questo per poter poi essere credibile e riuscire a fare il mio... Vabbè, se faccio quello che posso, se non... Chiaro, volevo dire che oltre non si inventa nulla, pure tappa buchi, cioè qui trasmissioni senza offesa, ma appunto come dice proprio lui... messe proprio a riempire il palinsesto, cioè questo stai dicendo io, o c'è una ragione occulta? No, io ne sono consapevole, infatti lo faccio, mi hanno detto fai una trasmissione un po' noiosa che si può mettere al mattino, non lo so, in delle situazioni un po' dove comunque non è che deve essere tutto pim pum pam, che però a noi ci fa gioco nel nostro disegno della radio e io mi sono prestato volentieri a questo gioco. Un martire. E quindi niente, faccio questa trasmissione che comunque riesco a fare anche poco perché la divido tra il lavoro in miniera che... infatti la grotta dove siamo l'hai scavata te comunque, con le mani tu. Andiamo a Wombattar. Ero contento di ospitarvi un po', così vedevate anche come passavo la mia giornata. A scavare diamanti nell'antro buio. Posso dirlo, siamo nella Wombat Caverna, lo sapete. Poi tra una trasmissione e l'altra lo frustano comunque perché tante volte... Fagliavi chi comanda. È chiaro, bravo. Ma io comunque sono buono, cioè nel senso non do fastidio. No, stai lì in un angolo, però comunque insomma, ecco, è una vitaccia, non è che... E quindi per riscatto a tutta questa oppressione di una dittatura radiofonica veramente pesante, direi... No, ma io vi ringrazio perché... Perché è come ogni schiavo, grazie. Ha introiettato il senso di colpa, eppure ringrazi, cioè capisci il senso... No, io vi ringrazio appunto per l'opportunità che ho di fare i miei 30 minuti di trasmissione, che appunto spesso non riesco a farli per la questione della miniera, infatti mi sono fermato alla terza puntata, ora sto preparando la quarta puntata che... mi hanno imposto sia sulle geometrie non euclidee, che era un argomento un po' difficile, infatti io ci sto mettendo un po' di più, ma perché l'argomento era un po' più difficile del solito, anche perché mi hanno detto non dare un taglio troppo da sempliciotto, cerca di mantenere anche uno stile un po' approfondito che sembra che ne sai un sacco, e quindi l'ho già registrata 4 volte, ma ogni volta... Io non ce la faccio. Così non ce la faccio. Ogni volta sbagliando. E purtroppo sì, e quindi ci sto mettendo tanto, ma solo perché sono già alla quarta registrazione. Così. Perché non volevo dire inesattezze, che poi uno le registra, questa cosa che metti il podcast, certo. Uno le riascolta e quello l'hai detto e sarà così per sempre. Podcast manent, no? Esatto. Si dice. Noi su questo, Mari, siamo, cioè, diciamo, tutte le volte c'è da fare l'errata corrige, diciamo delle cose, poi dopo ce le dobbiamo rimangiare. Ma noi siamo sempliciotti. Noi un po' sì, così. Mentre appunto qui lo schiavo, ecco, della Radio Wombat necessita, ecco, di essere preparato, un'esattezza. Quindi... Ma di cosa ti nutri, fra l'altro? Già. Muschi e licheni forse crescono in questa grotta. Io mangio un po' quello che trovo, insomma. Non ho pretese, comunque. E con coccoli al silicio, quando lo trova. Quando lo trovo. Giusto. Non pretendo anche di mangiare tutti i giorni, cioè, va bene anche a fasi alterne. Sì, comunque se c'è io mangio, se non c'è comunque non è che mi lamento. No, cioè, c'è, finché posso tiro avanti. Che bello magrino, hai visto? Bisognerebbe, ecco, insomma, ci potrei venire un po' io in Bat Caverna, magari fa bene. Così. Quindi questo era coccoli al silicio. Sì, e che poi, tra l'altro, allora, coccoli al silicio, e tu devi, chiaramente, mi immagino, trovare della musica adeguata. E voglio proprio vedere cosa metterai volta, cosa sulle geometrie non euclidee. Cioè, sono interessata. Ti ci vorrei sulle geometrie non euclidee, infatti, in realtà è semplice, è più semplice di quello che sembra. Certo. Ah, ora, non è il pezzo che proponiamo ora, perché questo mi è stato imposto dalla direzione. Pure quello. No, niente. Quello di questa sera, sì, ma perché non potevo fare brutta figura, no? E quindi mi hanno detto comunque devi aderire a un paradigma, e il paradigma vuole che te ascolti della musica tendenzialmente che ha a che fare con la tecnologia, quindi si è scelto la musica 8 bit, che a me proprio mi fa schifo in realtà. Manco la musica gli piace, cioè, che rimanga fra noi. Una gioia proprio, cioè, manco gli piace. Lo dico perché siamo tra noi, non mi permetterei mai di dirlo con quegli altri della direzione. E appunto si è scelto questa musica 8 bit perché è uno stereotipo che, occupandomi di questa cosa, mi deve piacere la musica dei computer degli anni 90, no? E certo. Che in realtà a me urta tantissimo, cioè proprio non mi piace per niente, non capisco perché la gente l'ascolti, non ce la faccio. A me mi piace il funky, la disco music, di mio sarei un ballerino in realtà. Nella Bat Caverna proprio fa dei balletti, che però siccome infatti in radio non si può ballare, cioè nel senso non lo vede nessuno se balla. Il programma di funk ci manca solo quello, direi, poi chiudiamo il bandone. No, ma infatti mica io non l'ho mai neanche proposto, cioè, ma neanche mi sarei mai osato a proporre una cosa di questo tipo. Cioè, sono perfettamente cosciente che comunque, cioè, lo share prima di tutto, lo so che col funky cala. Cioè, io una volta ho messo i dischi all'Emerson, ho messo tre pezzi funky e tutti sono andati via. Certo. E da lì ho capito che comunque non piace. Dentro di te, Gino. Sì, no, infatti, ma lo so che il problema so io, non è che, infatti... Diamine. Io non... No, per carità. Niente. E quindi niente, c'ho questo pezzo 8 bit che mi è stato imposto da direzione. Appunto da questa immagine che devo dare di me stesso per rimanere all'altezza delle aspettative. E, con le geometrie non euclidee in realtà ho un gioco molto semplice, perché come tu mi insegni, cioè lo spazio, no, attorno a noi, in realtà a seconda della curvatura che assume ci sta che si sposi con una geometria non euclidea piuttosto che con un'altra, visto, e quindi parlerò di pezzi che hanno a che fare con l'universo. Senti dove è andato, capito? A parare. Non si sbaglia mai così. Senti dove è andato, capito? È furbo, non è che... insomma. È un po' tirata per i capelli, secondo me. Un po' presa larga. Però... No, no, non capisco perché. La risposta è 42, un po' più o meno. C'è la somma dei... Anzi, è prog triangoli 42. Costruiti. Giusto, prog 42. Ok, io non so contare, per cui con me dovete essere un pochino più... Esatto, chiari. Sì. Va bene, basta, facci sentire, schiavo, facci sentire. Sì, certamente. Allora, schiavo. si tratta del Moonlight Sonata, e sarebbe la solata al chiar di luna. E in particolare andiamo a ascoltare il terzo movimento di Ludwig van Beethoven, eseguito da un computer di merda. Allora, secondo me adesso noi usciamo dalla regia e troviamo tutti morti, perché con questo pezzo usciamo è un parolone, perché comunque ci hanno tolto anche i mezzi con cui si entra, cioè hanno proprio chiuso la porta della Batcaverna, per cui adesso, cioè, uscirne non ma lo so, c'è un motivo secondo sarà me complicato. Secondo me era una, sai, come se nei film, no, la trappola, cioè ci hanno portato trappolone. Qui tac, trappolone, noi e lo schiavo chiusi nella Batcaverna e non so. No, anche perché secondo me questo pezzo vi ha massacrato, non lo so, forse. Però invece no. No, no, invece è un modo per far diventare Beethoven divertente. Scusate, io non sono una beethovenista, sono una mozartiana, quindi ogni volta che si può infamare, giustamente, si infama, no, scherzo. Però era molto carino, molto molto carino. Quindi e... sonata al chiar di luna, terzo movimento in particolare di Ludwig van Beethoven, rifatta. Dolce dolce Ludovico, perché non vogliamo fare un inciso su Arancia Meccanica e il vecchio Ludovico Van, perché ora quello è un film, però la colonna musica di Arancia Meccanica, come lei mi insegna, signora Mari, e assomigliava anche un po' a questa 8-bit, perché nella colonna musica di Arancia Meccanica, siccome il protagonista Alex è un appassionatissimo del buon vecchio Ludovico Van, come lo chiama lui, ci sono molti momenti non solo di Beethoven ma anche di altri autori che Kubrick fa, appunto, velocizzò, fece mandare a doppia velocità per rappresentare alcune scene che lui voleva, appunto, usare questa tecnica di velocizzare le scene. E sotto ci sono diverse scene così in Arancia Meccanica, molto famosa quella dell'orgia tra lui e le tipe, che aveva appunto incontrato poi nel negozio di dischi mentre cercavano i pezzi, e lui gli consiglia Beethoven. E mandano poi un pezzo, mi sembra di Beethoven, non vorrei sbagliare, o comunque di un altro compositore classico, ho mandato a tripla velocità, proprio perché Kubrick voleva ottenere questo effetto straniante di utilizzare una musica, appunto, molto cioè Beethoven è proprio, no, il massimo del classico, quando si pensa alla musica classica, Beethoven, insomma, il massimo del monumentale, poi manco troppo vero in realtà, però diciamo l'idea che se ne ha è un po' questa. E quindi da bravo segnaccio. Perché non aveva l'8-bit. Perché non aveva l'8-bit. Lo faceva tutto a 8-bit. Esatto. E Kubrick lo sapeva. E quindi vedi, anche lì, anche nel cinema, c'è spesso questo uso della musica classica, spesso velocizzata, proprio perché, per dare questo effetto un po', appunto, straniante, appunto, no? Diverso. Sì. E noi anche velocizziamo un pochino, perché sennò qui si fa notte, e proseguiamo con un po' di assenti, perché non tutti sono qui con noi chiusi nella trappola della Wombat Caverna. E ad esempio mandiamo un grandissimo saluto a un grande assente che, ahimè, è assente per motivi di salute, e quindi non lo fa perché è anzi un bastardo. E sì, gli mandiamo un grandissimo abbraccio, che è il direttore, il sommo direttore artistico di Tonight Alive. Niente, un po' di meno che... Sì, che essendo uno sportivo sfegatato si fa sempre male, e quindi... Sportivone, però insomma... Paga il fio. I risultati poi... Sì, e però noi lo salutiamo un sacco, purtroppo non abbiamo un pezzo live, non ce lo siamo preparato, facciamo schifo, no. Però non ci è venuto di trovare un pezzo live, sì, no, e non abbiamo manco YouTube, non si può fare, dai, però immaginatevelo, fate finta che il prossimo pezzo che mandiamo sia suonato live, esatto, e sia un bootleg introvabile, ecco, abbiamo fatto in questa maniera Tonight Alive. Come lui, il sommo, avrebbe fatto se esatto. fosse stato e come farà noi. Tra l'altro tra poco. Perché insomma si è preso una piccola pausa appunto dalle dirette, quindi Tonight Alive normalmente va in onda in diretta il sabato dalle 22:30, perché insomma veniamo incontro anche alle esigenze di chi non c'ha voglia di uscire di casa, o è stanco, è malato, o c'ha i cazzi suoi, come noi, odia le persone, oppure è sociopatico come noi, esatto, o agorafobico, insomma varie problematiche, e sta in casa e può ascoltarsi il concerto dal vivo. E che concerti, perché fior di concertoni, il nostro ragazzi. Direttore artistico insomma ci propone dei concerti delle Madonne di vari generi e vari gusti, quindi insomma andate a guardarvi i vecchi podcast e capirete. E Poi, altra trasmissione che non è qui con noi perché è a fare altre cose, altre faccende indaffarato, è Ivan con La Revancia. Esatto. La Revancia che invece va in onda il lunedì alle 21, tutti i lunedì alle 21, che è la nostra perla punk, hardcore e tutte varie affini. Quindi, La Revancia... fra l'altro ultimamente ha preso anche a intervistare vari protagonisti della musica punk hardcore di adesso, perché insomma non è una trasmissione tanto romantica e votata al passato, per nostra fortuna, come del resto neanche la nostra radio tutta, ma ama pubblicizzare e far conoscere anche la scena di adesso e quindi i protagonisti di questi anni. Quindi ultimamente ha fatto sentire un po' di gruppi, un po' di varie etichette, di distro, che insomma sono un po' l'anima e l'ossatura di tutta la scena punk hardcore fiorentina, ma non solo, anche italiana, toscana e un po' tutto. Quindi vi ripeto, La Revancia lunedì alle 21, e siccome il nostro buon Ivan non è qui, ho scelto io per lui un pezzo. Però secondo me sarà contento e l'appoggerà, perché sempre dai Vitamin String Quartet che abbiamo fatto sentire prima ci ascoltiamo un pezzaccio che non so neanche se dirvelo il titolo, perché forse lo riconoscete, ma vabbè, ve lo dirò: è Sabbath Bloody Sabbath dei Black Sabbath. Chiaro. Thank you. Rieccoci, ho conquistato il microfono, c'ho anche il chewing gum in bocca per avere una parlata più fastidiosa, perché comunque non dalla direzione hanno deciso che non devono valorizzarmi troppo perché io non possa esprimermi completamente. No. E comunque mi hanno lo stesso, anche se sono riuscito a scalzare una delle DJ, ne rimane comunque sempre un'altra di controllo. Claro. E più in là c'è anche uno maccione grosso. Andiamo in coppia, non esatto, è che adesso che controlla tutto quello che faccio. Però è successo che, siccome prima avevo detto questa cosa che ho sbagliato, scusa, direzione, che io avrei voluto fare il ballerino e ascoltare musica funky, hanno detto vabbè, guarda, c'è stata questa cosa che purtroppo c'è il legittimo detentore della musica sul soul che si chiama Soul Time, purtroppo ha avuto un inconveniente, non viene. Allora, se vuoi, tu puoi parlare in sua vece per una volta e non senza esatto. fare la trasmissione, senza. Però posso parlare comunque e pubblicizzare, così anch'io mi sento parte di questa cosa. Utile. Grazie. E di conseguenza, allora adesso presenterò questa trasmissione che va in onda il mercoledì alle 7 e in replica il venerdì e il sabato, ma non ricordo precisamente. E si tratta di una trasmissione in realtà tarata su un particolare tipo di musica soul, in particolare il Northern Soul, che è un soul che non esiste, perché non vuol dire niente. Northern Soul era solo che era un soul che ballavano nel nord dell'Inghilterra negli anni 60-70. In realtà la cosa ha avuto una lunga, diciamo, l'hanno ballata per più di 25 anni sti matti, sto Northern Soul, che poi si è modificato nel tempo perché è partito dal soul della Motown e così poi si è evoluto in altri stili, poi è finito nella disco music, insomma c'ha avuto varie influenze nel funky e così, cioè a seconda dei locali dove andavi trovavi un particolare tipo di questa roba. E tutti questi dischi oggi sono roba da super collezionisti, anche perché nascevano già male, in questo senso, nel senso che il Northern Soul, così come era ballato in Inghilterra, erano in realtà tutti i dischi, lati B, cioè tutta lo schifo prodotto, ma schifo bellissimo però. Uno schifo bellissimo, prodotto in America, ma ormai tutta quella roba lì in America non l'ascoltavano più. Quindi era già una produzione strana, perché tu sostanzialmente dovevi reperire quei dischi, però dopo un po' finiva la selezione musicale, perché non è che ne facevano altri dopo sul tema. Quindi dovevi solo reperire altri dischi, ma poi dopo un po' finivano anche quelli, e tutto stava semplicemente nell'avere i ganci per fare l'import-export dall'America. E il DJ era il grande protagonista se era capace di procurarsi questi dischi. E quindi la trasmissione Soul Time, Pimp My Vinyl, esatto, era così, ed era lì che, capito, nascevano tutte quelle cose dei DJ che poi si raccontano, cioè tipo che ti coprivano per le etichette del disco, che mettevano per non farti vedere cosa certo. stavano mettendo, perché quella era la loro fortuna, cioè quel pezzo lì ce l'avevano solo loro, se lo dicevano esatto. a tutti, poi tutti potevano fare i DJ. C'è una bellissima serie di Baz Luhrmann che si chiama The Get Down, fatta per Netflix, che parla proprio anche di questo. E qual è? È quella che non vuoi mai vedere, perché ti si dice sempre vedila, e poi dici no, mi annoio. Però la serie di Baz Luhrmann, The Get Down, che l'hai vista forse, c'ha un momento in cui parla proprio di questo, in cui nella New York della fine degli anni 70. Ma è quella di Master Flash. È chiaro. È quella di Master okay, Flash. Sì, certo, comunque devo essere allora, capito, quella di Master Flash. Scusa, io no, stavo parlando del soul, no, ballato in Inghilterra però negli anni 60. Del disco, la cosa del disco succede lì, questa cosa che dicevi succede anche. No, ho sbagliato. Succede. Cioè coprono le copertine dei dischi per non farti vedere cosa mettono. Eh sì. Ma perché pensa. Lì ci sono lo fanno più sulla musica hip hop, perché era la nascita della musica hip hop come oggi la intendiamo. No, però loro però mi mixavano, cioè, se mi permette, loro allora, mixavano, mixavano pezzi funky. Non sì. è per sempre tornare lì, che a me piacerebbe fare. No, allora infatti allora, funky, a parte che non è che lo schiavo prende e contraddice la DJ perché non si è mai visto, e non è che adesso ti lasciamo e comincia così. No, c'hai ragione. Quindi, anche un attimo, è il guinzaglio. Ho fatto un esempio per dirti sì, appunto, che questa cosa si vede che succede anche in quella serie lì. Non so se ha ragione o torto, se era vero o no, però succedeva anche in quella serie. Okay. Sì, c'è anche un film che si intitola Northern Soul, che è uscito 3-4 anni fa, dove si vede proprio questa scena del copro il disco per non fartelo vedere. Esatto. E insomma, Soul Time vi proietta in quei magici anni dove il proletariato inglese passava questi fantastici sabati sera all'insegna delle anfetamine e delle folli ritmi del Northern Soul, sì. E in questi locali tipo il Vegan Casino, che è bruciato, quindi possiamo fare pubblicità, tanto non c'è più. Esatto. Allora, schiavo, non si emozioni troppo, cioè, no, manteniamo un attimo. E vi riproietta in quegli anni con un'attenta anche analisi di ciaschedun pezzo, cioè di ciaschedun pezzo lui racconta anche delle chicche, delle amenità che rendono la puntata estremamente fruibile anche per il pubblico non necessariamente appassionato, ma comunque cultore della buona musica, come speriamo sia, anzi siamo sicuri sia, tutto il pubblico che ascolta Radio Wombat. Benissimo. Allora, sono stato bravo. È stato bravissimo. Cioè, che posso anche... No, ora non ci allarghiamo, no. Torni nella sua Batcaverna, per favore, grazie. È stato molto utile, grazie. Posso mettere il pezzo? Puoi mettere il pezzo, sì. Ho sbagliato mouse. Allora, voi non vedete la scena, ma viene picchiato sulle mani, come a scuola. Ma lo meritavo. Sì. Grazie. E scusa, comunque. Sempre. Allora, il pezzo è Paul Moriarty Orchestra, si tratta in realtà di un signore con tanti amici, sostanzialmente. Il signore era Paul Moriarty e l'orchestra erano i suoi amici, che va ad eseguire un pezzo che è veramente un classico fantastico di quegli anni, che in realtà la canzone originale è di un gruppo che... Cavolo, lo volevo dire, non mi ricordo come si chiama. Allora, venitemi in aiuto, cioè io lo so che tu lo sai. Los Bravos, nessuno sa che questo pezzo è dei Los Bravos, che erano un grandioso gruppo anni 60, un gruppo beat, e perché tutti si ricordano però il titolo, che è Black is Black, e questa è appunto una versione solo strumentale eseguita da il signor Paul Moriarty e la sua orchestra. era un pezzone dove praticamente stavamo tutti ballando e stavamo devastando qui la Wombat Caverna. Però d'altronde era irresistibile e non vi dico lo schiavo qui cosa non faceva. Vabbè, e sì, era la quinta di Beethoven in versione Walter Murphy, che insomma è un pezzone tra la disco music e con un po' di funky, che ci serve a introdurre, direi, perfettamente la prossima trasmissione di cui vi vogliamo parlare, che è Mortal Wombat. Ve l'abbiamo citata prima, adesso abbiamo finalmente due conduttori, non solo uno, abbiamo un sacco di gente. Grazie. E quindi niente, raccontateci un pochino Mortal Wombat, di cosa parla, che cos'è, visto che è anche un po' nuova. Sì, ciao a tutti, buonasera, siamo Burretta e Digetone di Mortal Wombat. Mortal Wombat è un programma di musica e cultura hip hop. Cerchiamo di spingere la musica rap, soprattutto quella italiana, perché ci piace capire i testi, comprenderli bene, e non siamo troppo portati a comprendere altri linguaggi, quindi spingiamo soprattutto musica rap italiana, che pensiamo sia una delle musiche che fa del messaggio anche il suo punto forte, il suo punto centrale. E quindi tutti i venerdì cerchiamo di dare un senso e di portare avanti la musica che ci piace, passando canzoni, commentandole, ripercorrendo un po' la storia del rap italiano, un po' le varie differenze stilistiche, regionali e non solo, metriche. Non lo so, Tone, te hai da dire qualcosa? Sì, noi supportiamo la musica libera, ecco. Diciamo non ci importa di SIAE, comunque cerchiamo di passare e di ascoltare quello che vogliamo, quello che ci piace, e farlo ascoltare anche a voi. E per questo ci siamo impegnati, ecco, da un mesetto, qualche settimana, già qualche puntata che trasmettiamo. Adesso la nuova regia sembra tutto vada a gonfie vele, vogliamo continuare così, fare sempre meglio e farvi ascoltare tutto quello che ci siamo ascoltati noi, tutto quello che conosciamo, tutto quello che ci ascolteremo. E grazie ad ascoltarci, grazie di seguire Radio Wombat, che è un'ottima iniziativa. Cose nuove così vanno supportate, spinte sempre di più. Quindi ecco, io sono contentissimo, trafogato, contentissimo, ecco. Io devo dire sono di parte, perché senza volerne a nessuno, ma ecco, Mortal Wombat è una delle mie trasmissioni preferite. Ecco. E lo voglio dire, lo dirò, ci metterò la faccia. Grazie. Che io me l'accollo proprio. Ecco. Iniziamo subito col favoritismo. Un po' perché, vabbè, ci sono veramente tra i miei personaggi preferiti, tutti lì, tutti insieme, per cui io me li sono visti crescere e me li rivendico. E un po' perché, sì, lo so, lo schiavo è invidioso, lo sta facendo dei gesti di invidia. Lo schiavo è verde, è veramente verde d'invidia, però caro schiavo, sappilo che è così, questa è un'altra storia, cioè sappilo. Sì. E quindi bene, vorrei dire che secondo me in particolare oggi si può trovare dei buoni agganci, perché molti pezzi pop citano proprio, anche grazie alla loro natura proprio di musica che riesce a citare, che riesce a attraverso le tracce a mutuare molto dagli altri generi, no? Ora vorrei fare una citazione delle musiche di Leone per il Colle del Fomento, per il Danno, ma insomma, esatto, in generale, esatto. È un genere che permette la citazione proprio perché è fatto su basi spesso, quindi certo, il campionamento, esatto, del si presta del giro, molto. Sì. E quindi io appunto, l'artista hip hop, l'artista rap, scusate, può appunto prendere da vari altri tipi di musiche, e spesso lo fa, e inserirlo nelle proprie basi. Avete quindi un esempio oggi per noi, visto sì, che sì, abbiamo sì, chiesto sì. un po' ci questo. Siamo preparati un esempio, è un pezzo degli Artificial Kid. Breve parentesi su chi sono gli Artificial Kid, è bene dirlo, è un progetto, diciamo, cyberpunk rap. Sono formato da Stubby Boy, Danno del Colle del Fomento e DJ Crime, che salutiamo perché conosciamo anche bene personalmente. E il pezzo che andremo a passare si intitola Rollerball ed è un pezzo che si lega benissimo con questa trasmissione, proprio per il beat che riprende un beat. Eravamo un po' indecisi, ci sarebbe piaciuto passare anche Street Opera di Lord Bean, che musicalmente non è proprio musica classica, però comunque è una street opera, un'opera di strada. Ci stava. Che ci stava. Invece abbiamo scelto quest'altro pezzo, è tratto dall'album del 2009, numero 47 degli Artificial Kid. E ricordateci niente. Al volo, prima di lanciare il pezzo, gli orari. Allora, abbiamo detto il venerdì in diretta Mortal Wombat a che ora? Dalle 17. E poi, come per tutte le trasmissioni di cui abbiamo parlato finora, vi ricordo che sono tutte un po' in replica nei giorni successivi e potete trovare i podcast sempre sul sito wombat.noblogs.org e ascoltarvi tutte le vecchie puntate che vi siete persi, ma vi invochiamo assolutamente, ascoltateci in diretta che noi siamo più contenti. Partiamo il pezzo, ci siamo? Proviamo, vai. Chissà. Oggi è dura, ragazzi. È difficile. Date retta ai Wombat, eh? Oggi è dura per il Wombat. No, in effetti non sta assolutamente uscendo niente. Chissà. No, perché vi devo dire che è un po' difficile questa cosa, perché non avevamo il pezzo con noi, abbiamo dovuto improvvisare. Sì, va bene, abbiamo dovuto fare un po' un casino. Però, allora, come fanno i DJ quelli preparati? Adesso io perderò tempo e vi dirò un sacco di cose importanti. Quindi, tipo, che ne so, che dovete fare delle cose, tipo guardare il sito, no, ve l'ho già detto. Dovete, scriverci, sicuramente, scriverci a postawombat@insiberia.net e sto per cedere e mandarvi un pezzo. Ah no, è partito. Non è vero, esce soltanto perché questo, vedete, è un problema della tecnologia, perché ci affidiamo ai telefoni. I telefoni sono brutti, io tante volte lo dico questa cosa. E vabbè, secondo me sto per mandare un altro pezzo, mando un pezzo che non c'entra niente, però mi dovete rendere anche il cavetto per poterlo fare. Ma sì, vabbè. No, niente, perdonate questo inghippo, ma ora vi mando un pezzo e poi sicuramente con la mia terza mano adesso riuscirò a farlo partire e nel frattempo inventarmi delle cose importantissime da dire. Sì, tipo che vi mando un altro pezzo di Vita Mainstream Quartet, che tanto quelli sono riempitivi e vi piacciono, vero, vi piacciono? Eccoli a voi. Thank you. pare che ora ce la faremo, o almeno ci riproveremo, ma secondo me questa è la volta buona. E però mi sono trovata un riempitivo di cose da dirvi nel frattempo, ovvero che così chiacchierando a un certo punto ci hanno detto: ah, ma Wombat l'avete scelto perché è l'acronimo di Waste of Money, Brains and Time. E questa cosa, cioè, io ho detto cazzo sì. Però assolutamente non l'avevamo fatto per questo, vabbè, però ora che lo sappiamo diventerà il nostro motto dopo Direct al Wombat. Ce la facciamo? Ci proviamo? Proviamo a lanciare il pezzo Artificial Kid, come si chiamava il titolo? Chissà, non ti sento assolutamente. La gente è strana, si odia e si ama, si accoltella la schiena, poi si perdona e si richiama. Arriva il fine settimana con la smania di apparire viva, schiava del riflesso in cui si ammira, satteggia e respira l'aria che lei stessa inquina. Se io gira male parte e te regala una scintina, già dalla mattina nel mattatoio globale fa un caldo tropicale, non c'è sta un cazzo da guardare. Uguale in città, fra promesse e scommesse, debiti e tassi di interesse, Xanax in compresse per la felicità, passa il tempo ma le storie qua sempre le stesse. La gente se ne impossibile prova non ci riesce, più c'è state la testa e se desisce, esce in cattività da una vita in cattività. Più passa il tempo qua, meno si fida, s'appiccica per niente, ogni cazzata è una sfida, grida per il sangue come dentro alla corrida, senza più speranza in mezzo a sta mattanza in cui si balla come se fosse una danza su qua. È rollerball, il nuovo sport estremo mondiale, se gioca fasse male, rollerball, fino al capitolo finale, zio, la mattanza globale, rollerball, il nuovo sport estremo mondiale, se gioca fasse male, rollerball, fino al capitolo finale, zio, è la mattanza globale, rollerball, il nuovo sport estremo mondiale, se gioca fasse male, rollerball, fino al capitolo finale, zio, la mattanza globale, rollerball, il nuovo sport estremo mondiale, se gioca fasse male, rollerball, fino al capitolo finale, zio, è la mattanza globale. Eccoci qua di nuovo in questa turbolenta regia. Oggi ce ne stanno succedendo di tutto. Succede di tutto e di più. E questo pezzo fantastico, uno dei miei pezzi preferiti. E tra l'altro si diceva appunto a microfoni spenti che come sempre il danno è un fine conoscitore e ci piazza sempre le citazioni, in questo caso anche cinematografiche, perché appunto Rollerball è il gioco che avviene in un paio di film, nel film originale e poi nel remake. E quindi grazie Danno, la sa sempre lunga Danno, sempre so. Sempre è veramente un signorino. Eh sì, e quindi niente, salutiamo il Mortal Wombat. Se non avete altre perle che vi sono venute in mente nel mezzo, cose da dirci? No, non ci è venuto in mente niente. Vi salutiamo anche noi. E grazie. È stato un piacere. È stato un piacere nostro. Per chi ci potesse ascoltare venerdì dalle 5, Radio Wombat, lo sapete, radio wombat.noblogs/streaming per la diretta, proprio quella che state facendo adesso. Grazie mille. Ciao. E proseguiamo, ormai siamo quasi in chiusura perché non è che possiamo ammorbarvi all'infinito, tenervi compagnia per sempre, insomma dovete anche trovarvi qualcos'altro da fare nella vita. Fatevi una vita e soprattutto lo schiamo non mangia da giorni, quindi ad un certo punto crollerà, suppongo, anche se è abituato, però... Neanche noi tra l'altro mangiamo da noi, giorni. Noi sai, siamo comunque creature comunque di un altro... Sì, siamo elevati. Ecco, sì. Sì, vi dobbiamo presentare le ultime trasmissioni a questo punto. C'è l'auto, devo cambiare il cappellino, esatto. E presentare la mia stessa trasmissione, fare finta di essere un'altra persona, ma non mi riesce. Presenti. E quindi presenterò Slick Chick, che è una trasmissione che va in onda il mercoledì alle 9 e che è essenzialmente una trasmissione che prende uno spunto sempre diverso, una parola, le ultime erano lo sciopero, la pioggia, l'autunno, oppure anche il tempo, i numeri, l'elettricità. C'è stata una bellissima puntata di Anti San Valentino, giusto? Notevole veramente. San Valentino anche abbiamo fatto, e che essenzialmente prende appunto questo spunto e lo usa come scusa per ascoltare un po' tutta la musica possibile e immaginabile, perché mi piace spaziare, non fermarmi su un singolo genere. Al punto, mercoledì alle 21, poi va in replica, chissà, non lo so, io non me lo sono mai ricordato, qualche giorno dopo, in vari orari, ma comunque le repliche le potete trovare sul palinsesto, sul sito. E a questo punto vi faccio ascoltare anch'io il mio pezzettino che mi sono portata. La scelta è stata difficile perché ce n'erano 2000, ma ho scelto Gli Amici, ovvero ho scelto sempre la marchetta. Sempre scegliere Gli Amici. Sì, alla fine ho deciso che tra i Madness, che comunque la loro fortuna l'hanno fatta, e Gli Amici, insomma sì, bisogna promuovere Gli Amici. E quindi vi faccio sentire un pezzo di Lily Refrain, che è una chitarrista di cose pose, che manda in loop. Loopata, una chitarrista noi amiamo molto. Sì, si potrebbe dire di canoni, visto che stiamo parlando di musica classica. Comunque sì, Lily Refrain, chitarrista romana, è venuta un sacco di volte a Firenze a trovarci e penso che ritornerà anche prossimamente. Quindi insomma, se ve la siete persa, venitela a sentire quando viene a suonare da noi. Se non la conoscete, scoprivatela, perché vale la pena. Scoprivatevela, io la passo ogni tanto in radio e anche adesso lo faccio. E vi faccio sentire questo pezzo che si chiama Imitatio, che è un omaggio a Asturias di Isaac Albeniz, chissà se la pronuncia è questa, vabbè. E lo sentirete, perché in realtà il pezzo è un arpeggio strafamosissimo, insomma, è il suo omaggio ed effettivamente c'entra sia con la loop e con i loop a cui Lily Refrain ci ha abituato, sia la musica classica a cui La Fuga del Gatto vi ha abituato. E quindi ascoltatevi Imitatio. e muore piano piano il pezzo di refrain e riprendiamo noi. Io mi sono rimpossessato del microfono perché ogni tanto lo schiavo riesce a sfuggire alle sue catene e rimpossessarsi della situazione. No, non fare finta che mi lasciate libero. Cioè, ora non ce l'ho per fare il suono delle catene, però non ve lo giuro. Stavo prima a pulire i pozzetti e le fosse biologiche, a togliere i cadaveri del posto, sì, esatto, dove sono attualmente. E poi mi hanno chiamato perché ci sono altri assenti illustri e allora hanno detto dai vieni su che noi siamo stanchi e parli te di queste trasmissioni che mancano, ma attenta a quello che dici perché tutto è registrato e c'è sempre quindi... comunque le gatte ti guardano, quindi non è che adesso ti puoi prendere le libertà. No, ma infatti non è che sono da solo, no, cioè ci sei anche se giustamente, giustamente male, perché grazie, io da solo grazie. È meglio non lasciarmi. No, meglio di no. È giusto. E si va a finire. E allora mancherebbero ancora 3 trasmissioni per aver concluso il palinsesto. Sì. Necessariamente ne parlerò io di tutte quante. Allora, quella che manca, la prima che abbiamo saltato, è l'Accademia della Brusca, la quale va in onda i giovedì alle ore 19. Sì. E trattasi di una dotta trasmissione sulla linguistica, mm-hmm, che introduce sostanzialmente sostanzialmente rivede, diciamo, la nostra moderna società. Non la prenda troppo dal larga. Punto di vista del linguaggio, della comunicazione. Bene. Le reinterpreta secondo le più svariate scuole di linguistica, si va dal neopositivismo della scuola viennese fino a Noam Chomsky e via discorrendo, e da questo sostanzialmente trae anche alcuni importanti consigli sul nostro modo di parlare, che poi anche il nostro modo di pensare. Ecco, che nel suo caso si elargiscono, cioè, punto. In che senso? Nel senso, appunto, ecco, facciamoci 2 domande. Sto andando male? No, sta andando benissimo, guardi, però appunto. Perché tu dici, se io parlo così poi la gente pensa che sono disturbato e vedo troppo vedere. Non volevo dirlo, però siccome l'ha detto lei, ormai è andata. Comunque, avanti, grazie. Scusa. No, prego. E di conseguenza, insomma, questa trasmissione è secondo il mio modestissimo parere, sì, è sostanzialmente la trasmissione più quotata anche da un punto di vista accademico all'interno del subito dopo c'è la vostra sulla musica subito classica. Dopo, ora non vorrei farvi vedere gli sguardi della mia collega, però insomma no, a pari merito, ho sbagliato, ci rifacciamo dopo, non si preoccupi. No, e a pari merito c'è queste, le vostre 2 trasmissioni sono le trasmissioni le mie preferite, voi siete le mie maestre preferite. Sta sudando, voi non lo potete vedere, ma sta sudando, ve lo giuro. Bene. Cioè, io le punizioni le accetto soltanto da voi 4. Chiaro. Quando volete, sono lì. Se mi volete mandare dietro la cattedra, io ci vado. Chiunque di voi mi ci voglia mandare. Bene. È uno schiavo umile, comunque. Sì, è un faccio ragazzo... un muro dietro zitto col cappello d'asino. Bene. E questa era l'Accademia della Brusca. L'Accademia della Brusca appunto affonda proprio nella tradizione pop, diciamo, sì, va proprio a ripescare quel tipo di cultura. Quindi propone che dei pezzi... dei pezzoni, tipo abbiamo quello che hanno scelto per noi questa sera. Esatto. È veramente un pezzo che, come si potrebbe dire, topico, cioè è proprio esemplificativo del loro stile, un po' tra appunto appunto la critica al linguaggio contemporaneo e comunque l'assunzione della cultura pop come modello di riferimento. Ottimo. Cui comunque bisogna confrontarsi, ecco. Sempre, l'avevo veramente preparato, mi è piaciuto e quindi si può mandare il pezzo? A voglia, se si può mandare, se non fosse che non so dov'è tra questi 1000 che mi avete messo davanti. Allora guardi, lei come al solito, signor Schiavo, mi ha portato quasi a ricredere. E poi mi cade. L'ho trovato. Poi mi cade sempre al momento del... No, ho risolto tutto, scusa. Ha risolto. Scusa di nuovo. No, ha risolto, sono paroloni, scusa. C'è stato un intervento divino. Però... Vabbè, in qualche modo ce la siamo cavata comunque. E ora lancio questo fantastico pezzo che tutti voi ricorderete della vostra infanzia, se avete una certa età come me. E se ci avete avuto un'infanzia? triste. Come non tutti hanno avuto? Bene, allora, Rock Me Amadeus del pregevolissimo e ottimo Falco. Der große Staat ist da in Wien, war wie einer, wo er alles tat. Er hatte Schulden deiner Frauen, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, er kann man Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, die Kasse hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, er kann man Rock Me Amadeus. Es war um 1780 und es war irgendwie No Plastic Money anymore, die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär. Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alle suchten noch auf den Captain Rock Me Amadeus. Eccomi, sono riuscita a scappare dallo stanzino delle scope dove mi aveva legato e imbavagliato lo schiavo per poter prendere il mio posto. Perfido schiavo, oggi proprio è stata la sua giornata, cioè, è vero sì. Che non lo liberiamo spesso, però quando lo liberi, cioè, è un attimo, sì, si sì, prende sì. Tutto lui. È un po' come Richmond in IT Crowd, per chi conosce questo fantastico telefilm. Citazioni. Vabbè, sì, per chi, quei tre che lo sapranno saranno d'accordo con me. Comunque, basta, siamo in chiusura, vi abbiamo veramente tediato anche troppo questa domenica e vi raccontiamo le ultime due trasmissioni, ma lo facciamo velocissimamente anche perché non abbiamo qui con noi i protagonisti di queste trasmissioni, quindi ve li citiamo al volo, che sono proprio dopo l'Accademia della Brusca, sempre il giovedì c'è 8 Hertz che ci fa con Autodate, che ci racconta atmosfere molto più intime, cupe e dissonanti in qualche maniera, quindi una trasmissione notturna soprattutto nei contenuti che vi invitiamo a ascoltare perché è sempre fonte di cose strane e sconosciute e rare. E invece l'altra trasmissione è Passaggio a Nord-Ovest, una nuovissima trasmissione che è piccola, dura un quarto d'orino, che però va in onda tutti i giorni, sempre alle 1:30, ma la trasmissione è sempre la stessa, è settimanale, ma viene replicata tutti i giorni in modo che non ve la perdiate, ed è una raccolta di quello che succede in tutto la parte nord-ovest di Firenze, diciamo. E quindi per noi ragazzi di borgata, sì. Quindi ci racconta un po', sentendo, andando a intervistare le voci dirette dei protagonisti di lotte o accadimenti vari che succedono appunto in quella parte della città, ma devo dire allargata, si fa per dire nord-ovest, poi insomma geograficamente ci si allarga spesso. E però sì, è molto interessante. La prima puntata parlava, che è andata in onda questa settimana, era un'intervista agli operai della Seves ormai chiusa, come saprete, appunto riguardo alla loro lotta per evitare la chiusura della fabbrica, lotta purtroppo finita male per loro. E insomma prossimamente ci saranno altre interviste, altri contenuti altrettanto interessanti. Quindi io direi basta così, possiamo salutarvi, e lo facciamo mandando un pezzone che è Roll Over Beethoven, lo ricorderete, ma non nella versione originale, ma una versione diversa, ma proprio brutalmente diversa, parecchio diversa, che è degli Electric Light Orchestra, dall'album Electric Light Orchestra 2 del 1973. Volevo ringraziare la polveriera innanzitutto per averci ospitato ogni tanto nella vita. Sì, okay. Sì. Anche perché c'è il banchino, ricordatevi, esatto, che c'è per ancora aver ospitato il nostro merchandising. C'è ancora poco inizia il contest, soprattutto. Chiaro. Quindi mi raccomando. Quindi volevo ringraziare la polveriera per aver ospitato il merchandising e invitarvi alle loro varie attività e iniziative. Sì, e niente, basta. Ricordatevi appunto, se passate dalla polveriera andateci, perché c'è la premiazione tra pochissimo del vincitore del logo del contest, cioè appunto il contest vincitore, non mi riesce di dire questa cosa, ho dei neuroni che mi impediscono. Il vincitore del contest del logo Wombat, sì, e appunto andate a vedere il banchino, che nel frattempo mi dicono essersi spostato all'interno perché fuori iniziava a fare freddo, e quindi andate a vedere già tutti i vari loghi stampati, tutto il vario merchandising, che immagino ormai saranno finiti, ma insomma andate a vedere quel che resta. Vi lasciamo con Roll Over Beethoven, vi salutiamo, vi diamo noi appuntamento con la Fuga prossima. Del Gatto, sì, alla Fuga del Gatto, che durerà molto meno, ve lo giuriamo, durerà la nostra consueta oretta e mezza, alle 4:30 la domenica, ma insomma tutta Radio Wombat vi dà appuntamento praticamente sempre H24 dai nostri microfoni sparsi per la città. Un saluto a tutti ancora, e grazie a tutti i wombattiani che sono passati. Ciao ciao! Ciao. We'll be right back.